Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il nostro sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2022, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo dall'anticlericalismo. Sulla prealpina di Varese, per il Darwin Day, che sarà il 12 febbraio, sono comparsi degli articoli, delle lettere di dura critica alla Chiesa, che denunciano stragi, ammazzamenti, tutti sostenuti dalla fede cattolica. Darwin riesce a rivoltare, riesce a rivoltare le tesi di San Tommaso d'Aquino. Anticlericalismo, diciamo, di fine vita. Antonio Pitamiz, famoso giornalista, ha rifiutato i funerali religiosi e, come risulta dalla prealpina del 14 gennaio, si è fatto fare la cerimonia funebre alla sala del commiato del tempio crematorio di Giubiano, in provincia di Varese. Rubate le offerte di Gesù bambino, siamo a Rò. Durante la messa di mezzanotte della vigilia, i soliti ladri hanno fatto irruzione nella canonica e hanno trovato 10.000 euro. Sulle disgrazie clericali abbiamo da Catanzaro, Gazzetta del Sud, 28 dicembre 2021, chiuderà a breve il monastero di Squillace, chiuderà il settore clausura. Per il giornale è una triste notizia, ma per noi invece è una notizia molto buona. Terribile disgrazia, il 12 gennaio 2022, in una casa parrocchiale di Siena. Due preti sono finiti intossicati dall'ossido di carbonio e sono gravissimi in ospedale. I santi non li hanno protetti, come al solito. All'oratorio di San Giustino di Cesano Boscone, invece di avere qualche miracolo, no? Al contrario, muore a soli 18 anni un ragazzino che era lì per giocare a pallone con gli amici dell'oratorio, sperando nella protezione del patrono, e invece niente, la sua malattia cardiaca, probabilmente un'aritmia che se ne vedono ogni tanto nei giovani, ha posto fine alla sua vita. E passiamo ai misfatti clericali. Dal Corriere della Sera, pagina Cultura, del 14 gennaio 2022. Saccheggio legalizzato dei beni degli ebrei. Antisemitismo clericale. Nel dopoguerra la DC era al potere, controllava tutto o quasi insieme a molti fascisti, no? E si guardò bene dal fare una legge che favorisse la restituzione dei beni rubati agli ebrei, no? Dopo la guerra, la restituzione di quanto era stato confiscato non avvenne mai d'ufficio, ma gli ebrei dovettero volta per volta fare causa, eccetera, eccetera. Da Il Manifesto dell'11 gennaio 2022, genocidio dei bambini in Canada. Il presidente Trudeau si scusa a nome del Canada, silenzio della Santa Sede, che gestiva 79 delle scuole sotto accusa. I bambini uccisi sono stati 50.000, La Chiesa è peggio dei nazisti, In certi casi. Rete L'Abuso, specializzata nella denuncia dei preti pedofili, siamo alla data del 12 gennaio. Vaticano, sempre più vescovi e cardinali trascinati in tribunale a rispondere dei preti pedofili. Ormai i nodi sono al pettine. E il giudizio universale finale della Chiesa è ormai prossimo. Anche i papi non vengono risparmiati. Ratzinger nella bufera. Da Rete L'Abuso del 16 gennaio. Monaco di Baviera, in arrivo il rapporto sugli abusi. Ratzinger trema. Era complice connivente dei preti pedofili. Poche storie. Respinta l'istanza dell'ex 007 Contrada, nessun risarcimento da parte dello Stato. Fatto Quotidiano del 12 gennaio, i crimini della Democrazia Cristiana. Questo qui era il numero 2 del SISDE, quindi ai tempi della Democrazia Cristiana, del clerico fascismo di Stato, in combutta con la mafia e con i fascisti, invece di combattere la mafia, combattere il neofascismo, questi erano in combutta con i mafiosi e con i fascisti per fare le stragi. Abbiamo poi l'uscita di un nuovo libro, Dizionario delle religioni dell'Oceania, Yakabuk. E qui ci ricorda una cosa tristissima che avveniva in Oceania, no? Fino agli inizi del Novecento e comunque in pieno secolo XIX avvenivano terribili sacrifici umani, oltre che cannibalismo, e nelle varie isole sono una peggio dell'altra, proprio perché chi crede in Dio è portato a ingraziarselo con dei sacrifici nei paesi civili. Sì, incivili tra virgolette, intendiamoci, sì, sacrificano le capre, le mucche, eccetera, c'è la giornata del sacrificio, no? Che c'è in alcune note religioni. E invece lì non avevano pietà, no? Sacrificavano i bambini, i primogeniti, anche noi adulti, insomma, no? È una cosa proprio terribile. E l'ha fatto vedere anche in televisione più volte, non è che questo libro scopra delle cose nuove, no? Chi guarda i programmi con documentari, Rai 3, Rai Storia, Focus, Rai Scuola, anche il canale 23, no? Cioè, ogni tanto ci sono questi documentari sull'Oceania dove si dicono, si fanno vedere che si facevano i sacrifici umani, no? Come del resto avvenivano anche in Asia, in America, in Europa, dappertutto. Chi crede in Dio è portato sempre a uccidere in nome del suo Dio. Inchieste, bottino di Stato, da Le Monde Diplomatique, il manifesto di gennaio 2022, il tesoro della Lega, ecco qua, contro i fascisti, contro i leghisti filocrocifissi, non solo ci differenzia appunto che loro sono razzisti, eccetera, ma anche che sono dei gran ladroni, hanno rubato cifre colossali. Concludiamo con qualche detto anticlericale. Per esempio, Ernesto Buonaiuti, morto nel 1946, e ho motivo di ritenere che sia stato avvelenato dai preti, mai come questa volta ho avuto prove terribili dell'ottusità e della perversità del potere in grembo alla Chiesa Cattolica. Siamo perfettamente d'accordo. E lui è un ex prete. Alighiero Tondi, spretato ex gesuita, in tanti anni di vita religiosa ho visto che fra le idee che ci vengono fatte professare le azioni conseguenti esiste un antagonismo irriducibile. I preti non a caso usano, e il Vaticano usa, dei codici segreti, proprio perché quello che fa è l'esatto contrario di quello che predica. Il potere tenta tutti, Satana ci provò con Cristo, con lui gli andò male, ma gli andò bene con i suoi vicari di Roma. Ignazio Silone, 1900-1978. La Chiesa Cattolica è ferma al passato. Il grande imbroglio del Vaticano è che sta occupando lo spazio pubblico per ingannare il popolo e i fedeli. Leonardo Boff, ex frate contemporaneo. Margherita Hack, astronoma triestina contemporanea, proprio in questi giorni è stato dedicato, si sta studiando un monumento per questa grande atea, che sicuramente questo povero monumento ne subirà di tutti i colori, dai leghisti, dai fascisti, eccetera, eccetera. Che ci siano voluti 359 anni per riabilitare Galileo è già di per sé un fatto grave, ma più scandaloso o più ridicolo non so, è che la commissione pontificia nominata da Wojtyla abbia impiegato 13 anni per arrivare a una simile decisione. La verità scientifica ha trionfato da secoli, con o senza l'autorizzazione della Chiesa. 359 anni per riabilitare Galileo, 350 anni per rendere noti i verbali del processo della monaca di Monza, con tutti i verbali delle torture, perché allora la Chiesa non si vergognava di torturare la gente, ma tutto veniva verbalizzato. Bene, arrivederci alla prossima puntata, saluti a tutti.